alta voce. Qua resta il dubbio, parla forte, già l'ascolto nuoce. Puoi tagliarmi le mani, lavartene le mani. Lo stretto è tanto e tanto so che sono tutti uguali. Qua vedo il buio tra i sipari, pasti strani tra i miei cari. Ma sono io che tengo testa a questi squali. Qua non serve che mi chiami, butta via il mio nome. L'amore in bocca dell'infamia ha tutt'altro sapore. Stanno con la coda fra le gambe come i cani. Ancora non mi fido ma sorrido, quindi amen. Voglio vedere il gran finale. Tieni le tue briciole di pane. Non colmano sta fame e domani sarà uguale. Nulla di speciale, lancette corrono, se ne fottono. E saperlo già fa male, resto in piedi da sola, col trucco che mi cola e la corazza sopra un cuore che batterà più forte ancora. In piedi mi vedi, cascasse il mondo, resto in piedi mi vedi ancora. Sarò sempre qua, sarò l'ultima a spegnere le luci della città. So che mi vedi, mi vedi, mi vedi. Cascasse il mondo, resto in piedi mi vedi ancora. E rimarrò sempre in piedi, e rimarrò sempre in piedi. Mai come loro, mai, mai come quelli. Io sono ciò che sono, non aspetto chi mi scegli. Non prenderò per buono tutto quello che mi detti. Questa vita afflitta è scritta dai poeti maledetti. Io so cose non vorrebbero sapessi. Non siamo tutti uguali, noi non siamo tutti fessi. Ma ci vorrebbero tale e quale a questi. Nascondono gli specchi, riscrivono le leggi. Non ho paura di stringere i denti. Forse solo dei dirigenti, quelli protetti dai potenti, che stimano un potenziale senza firmare assegni. La mia vita è in mano a quelli e loro blackberry. Qua restano frammenti, segreti tra le mura. Io sempre più dura, non sento più paura. E facendomi le ossa, diventando più matura, io mi sentirò più grossa ad ogni singola frattura. E resto in piedi mi vedi, cascasse il mondo, resto in piedi mi vedi ancora. Sarò sempre qua, sarò l'ultima a spegnere le luci della città. So che mi vedi, mi vedi, mi vedi. Cascasse il mondo, resto in piedi mi vedi ancora. E rimarrò sempre in piedi, e rimarrò sempre in piedi. Mi hanno insegnato a camminare a schiena dritta. Meglio stare zitta, non darmi per sconfitta. Perdere la lotta con i piedi saldi a terra. Incassare qualche botta per poi vincere la guerra. Sono io la prima donna, sono io e vivo il mio senza vergogna. Io vi lascio il primo posto che cercate ad ogni costo. Io sarò l'ultima in piedi finché posso, resto In piedi mi vedi, cascasse il mondo, resto in piedi mi vedi ancora. Sarò sempre qua, sarò l'ultima a spegnere le luci della città. So che mi vedi, mi vedi, mi vedi.